Vabbè, allora ci lasciamo con questa promessa. Io e Donato Carrisi, magari in un romanzo fra 20 anni si scriverà di un omicidio in diretta in radio, che poi insomma anche i suoi begli sviluppi, mettiamola così. Grazie a Donato Carrisi, ora in libreria con L'ipotesi del male, pubblicato come gli altri romanzi da Longanesi. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.